componimento ventinovesimo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Aspasia. Torna dinanzi al mio pensier talora il tuo sembiante, Aspasia. O fuggitivo, per abitati lochi a me lampeggia in altri volti. O per deserti campi, al dì sereno, alle tacenti stelle, da soave armonia quasi ridesta, nell'alma a sgomentarsi ancor vicina, quella superba vision risorge. Quanto adorata, o numi, e quale un giorno mia delizia ed erinni! E mai non sento mover profumo di fiorita piaggia, né di fiori olezzar vie cittadine, ch'io non ti vegga ancor qual era il giorno che, ne vezzosi appartamenti accolta, tutti odorati dei novelli fiori di primavera, del color vestita, della bruna viola, a me si offerse l'angelica tua forma, inchino il fianco, sovra nitide pelli e circonfusa d'arcana voluttà. Quando tu, dotta allettatrice, fervidi sonanti, baci scoccavi nelle curve labbra de tuoi bambini, in niveo collo intanto porgendo, e lor di tue cagioni ignari con la man leggiadrissima stringevi al seno ascoso e desiato. Apparve novo ciel, nuova terra, e quasi un raggio divino al pensier mio. Così nel fianco, non punto inerme, a viva forza impresse il tuo braccio lo stral, che poscia, fitto, ululando portai, finca quel giorno si fu due volte ricondotto il sole. Raggio divino al mio pensiero apparve, donna, la tua beltà. Simile effetto fan la bellezza e i musicali accordi, ch'alto mistero d'ignorati elisi, paion sovente rivelar. Vagheggia il piagato mortal, quindi la figlia della sua mente, l'amorosa idea che gran parte d'Olimpo in sé racchiude, tutta al volto, ai costumi, alla favella, pari alla donna che il rapito amante vagheggiare ed amar confuso estima. Or questa egli non già, ma quella ancora nei corporali amplessi inchina ed ama. Al fin l'errore e gli scambiati oggetti conoscendo s'adira, e spesso in colpa la donna ha torto. A quella eccelsa imago sorge di rado il femminile ingegno, e ciò che inspira ai generosi amanti la sua stessa beltà, donna non pensa, né comprender potria. Non cape in quelle anguste fronti ugual concetto, e male al vivo sfolgorar di quegli sguardi spera l'uomo ingannato, e mal richiede sensi profondi, sconosciuti e molto più che virili in chi dell'uomo al tutto da natura è minor, che se più molli e più tenui le membra, essa la mente men capace e men forte anco riceve. Né tu finor giammai quel che tu stessa inspirasti alcun tempo al mio pensiero potesti, Aspasia, immaginar. Non sai che smisurato amor, che affanni intensi, che indicibili moti e che deliri movesti in me. Né verrà tempo alcuno che tu l'intenda. In simil guisa ignora, esecutor di musici concenti, quel ch'ei con mano o con la voce adopra in chi l'ascolta. Or quella Aspasia è morta che tanto amai. Giace per sempre oggetto della mia vita un dì, se non se quanto, pur come cara larva, ad ora tornar costuma e disparir. Tu vivi, bella non solo ancor, ma bella tanto al parer mio che tutte l'altre avanzi. Pur quell'ardor che da te nacque è spento, perch'io te non amai, ma quella diva che già vita or sepolcro ha nel mio core. Quella adorai gran tempo, e sì mi piacque sua celeste beltà, ch'io per insino già dal principio conoscente e chiaro dell'esser tuo, dell'arti e delle frodi, pur ne tuoi contemplando i suoi begli occhi, cupido ti seguii finché la visse, ingannato non già, ma dal piacere di quella dolce somiglianza, un lungo, servaggio ed aspro a tollerar condotto. Or ti vanta che il puoi, narra che sola sei del tuo sesso a cui piegar sostenni l'altero capo, a cui spontaneo porsi l'indomito mio cor. Narra che prima, e spero ultima certo, il ciglio mio supplichevol vedesti. A te dinanzi, me timido, tremante, ardo in ridirlo, di sdegno e di rossor. Me di me privo, ogni tua voglia, ogni parola, ogni atto spiar sommessamente, a tuoi superbi fastidi impallidir, brillare in volto, ad un segno cortese, ad ogni sguardo, mutar forma e color. Cadde l'incanto e spezzato con esso, a terra sparso il giogo, onde m'allegro. E sebben pieni di tedio, al fin dopo il servire e dopo un lungo vaneggiar, contento abbraccio, senno con libertà, che se d'affetti orba la vita e di gentili errori è notte senza stelle a mezzo il verno, già del fato mortale a me bastante e conforto e vendetta è che sull'erba, qui neghittoso, immobile giacendo, il mar, la terra e il ciel miro e sorrido. Fine del componimento 29°.